Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Anticipare epidemie e altre emergenze sanitarie analizzando i reflui fognari. È lo scopo di Underworld, un progetto del MIT coordinato da Nuscia Gaeli e Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab, che è tornato a trovarci. Buonasera Carlo Ratti. Buonasera. Allora, 10 tra batteri e altri microorganismi per ogni cellula umana. È un dato che viene citato spesso per ricordare che il corpo umano è una specie di colonia batterica, è un ecosistema anche piuttosto complesso che si sbriciolerebbe senza il contributo di migliaia di altri microorganismi che ospitiamo dentro di noi e che formano quello che oggi viene chiamato microbioma. Ecco, fino a poco tempo fa questo microbioma era praticamente impossibile da studiare, perché l'unica cosa che sapevamo fare era isolare e coltivare i singoli microorganismi di cui era composto, cosa che in realtà riusciremo a fare in pochissimi casi. Da pochissimo tempo invece è stata messa a punto una nuova tecnica, in pratica una serie di algoritmi che consentono di ricostruire un'intera popolazione batterica a partire praticamente da un frullato di DNA di tutti gli organismi messi insieme. Ecco Carlo, forse possiamo partire da qui. Sì, in questi ultimi anni è stato possibile iniziare a quantificare il microbioma, una cosa in cui, ecco, non è proprio il nostro campo, è quello che facciamo insieme ai colleghi di ingegneria biologica, Biological Engineering all'MIT, che sono stati tra i pionieri in questo campo, e quindi usando delle tecniche che si chiamano di complete genomics, quindi di genomica completa, è possibile riuscire a caratterizzare tutti questi virus e batteri che vivono insieme a noi, nel nostro corpo. E l'idea è che un domani sarà possibile monitorare quasi in tempo reale, quasi ogni giorno, tutto il nostro microbioma. Oggi non riusciamo ancora a farlo, però quello che possiamo fare oggi è andare a misurarlo in modo aggregato. E questa è stata un po' l'idea del progetto Underworld. Nelle città c'è un bellissimo aggregatore di tutto il nostro microbioma e sono i sistemi, le reti fognarie. E quindi abbiamo iniziato ad andare nelle fogne di Boston e di Cambridge, andare a raccogliere dei campioni per da portare in laboratorio per andare a misurare questa specie di microbioma aggregato della città. In pratica come farete anche effettuare questo monitoraggio? Ma all'inizio siamo proprio andati fisicamente insieme alle persone della città a raccogliere dei campioni che poi abbiamo portato in laboratorio. Poi ci siamo effettivamente resi conto che questo forse non era il modo migliore di procedere, perché l'idea è di comunque andare a raccogliere campioni tutti i giorni. Allora siamo andati a bussare alla porta dei nostri colleghi che stanno a CSAIL. CSAIL è il laboratorio di Computer Science Artificial Intelligence, e insieme abbiamo progettato un piccolo robot, quindi questo robot va giù sotto, raccoglie questi campioni, poi andiamo a prendere i campioni, li portiamo in laboratorio dove i nostri colleghi di ingegneria biologica poi iniziano ad analizzarli. Che attese avete rispetto a questa sperimentazione? Pensate veramente di riuscire a prevedere delle epidemie? Ma ci sono molti punti di interesse, questi che stiamo proprio mettendo insieme con i nostri colleghi di ingegneria biologica. Allora il primo è cercare di capire se ad esempio riusciamo a prevenire un'epidemia, o almeno a segnalarla in anticipo rispetto ad altri metodi, diciamo, no? Esatto, segnalarla un'epidemia prima che effettivamente si sviluppi. Pensiamo al virus dell'influenza, che noi riusciamo a vedere il virus dell'influenza prima che le persone, poi effettivamente una grande quantità di persone si prenda l'influenza nella città. Quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda, che è anche molto importante, è quella legata invece a questioni di health, di salute di un certo quartiere, di una certa città. E quindi noi sappiamo oggi che il microbioma è fondamentale per quanto riguarda lo stato di salute dei cittadini, e quindi andando a misurare il microbioma in modo aggregato riusciamo a scoprire molte cose importanti legate a un particolare quartiere, che poi possono portare a nuove iniziative da parte della città. Anche dal punto di vista sanitario, tra l'altro, si sta vedendo che addirittura esistono, come dire, appunto vari ceppi di popolazioni batteriche che possono essere presenti in dei gruppi che li favoriscono o li sfavoriscono rispetto a delle patologie. Insomma, è un mondo che si sta scoprendo adesso, in realtà, questo proprio perché prima non c'erano i mezzi per analizzarlo. Assolutamente sì, è proprio un mondo nuovo, in un mondo che secondo alcuni, almeno secondo molti dei nostri colleghi al MIT, nel Dipartimento di Ingegneria Biologica, può aprire prospettive completamente nuove, anche dal punto di vista della metodologia con cui trattiamo le malattie, passare da quelle che sono oggi molte terapie basate ad esempio sugli antibiotici a qualcos'altro che invece si basa sul ripensare e riequilibrare il nostro microbioma, quindi usare quella che si chiama phage therapy, quindi la terapia dei, non so come si chiama in italiano. È un po' l'equivalente della lotta biologica, diciamo così, però molto simile a quella lotta biologica in agricoltura, ecco come questo si può applicare invece al nostro corpo. Tempistiche di questo progetto? Ma il progetto è in corso, quindi abbiamo iniziato un annetto fa, abbiamo ricevuto un finanziamento grande di ricerca per portarlo avanti. Quello che abbiamo fatto in quest'anno è raccogliere moltissimi campioni che sono stati analizzati in laboratorio. Ora arriva l'era, se vogliamo, dei dati, di big data, di usare tutti questi dati, tutti questi risultati e cercare anche con intelligenza artificiale di capire che cosa sta succedendo davvero. Grazie Carlo Rati, direttore del Sensible City Lab. Grazie mille, a presto.